sincera, magari ne hai voglia te, dici no. Quanti bagni mozzafiato insieme poi di sera, vicina vicina a me, premi un po'. Così piccola e fragile, mi sembri tu e sto sbagliando di più. Così piccola, accanto a te, fragile, io adoro, ma in fondo sei cosa che può diventare mio davvero, però se ci fido